Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Oggi ero scisso da due imperativi di argomento di trasmissione. Avrei voluto parlare del discorso che ha fatto il Papa ai giovani a Torino, dicendo: giovani, siate casti. Poi mi è arrivata improvvisa, come un fulmine in una giornata quasi estiva, la notizia della morte di Laura Antonelli, e quindi ho deciso di parlare della mia scoperta della malizia. Nanuzzo, che fai? Non sei a scuola? No, mentre ci stavo andando sono caduto. Gesù, che te facesti? Non è niente. Vieni, figlio, vieni. Non ti preoccupare, tentura di odio, Ora ci soffio sopra e passa tutto. Mettici una mano sopra. Dove? Alla ferita? No, al pirellino, sennò mi dà fastidio mentre ti fascio. Era l'anno 1973. Era un anno che, per chi non l'ha vissuto, faceva parte di quella sequenza di anni tristi che chi li ha vissuti intensamente li ricorda in bianco e nero. Era il periodo della mia vita in bianco e nero, perché erano gli anni più tristi dell'esistenza del nostro paese. Anni di austerità, anni di impegno politico, anni di impossibilità di cogliere la dimensione ambigua, la dimensione poetica, la dimensione limacciosa e pruriginosa di ogni esperienza propria di chi in quegli anni stava vivendo gli anni della giovinezza. Erano anni in cui il sesso era un fatto politico, in cui le nostre coetanee, io avevo 19 anni più o meno, mi sembra, 19-20 anni, le nostre coetanee o quelle che noi frequentavamo erano fresche ancora di aver bruciato i reggiseni in piazza, vestivano scarpe Clark, non si depilavano le gambe, avevano sempre un odore piuttosto pesante, e se te la davano perché era un fatto politico. Non dovevi nemmeno chiederla, nemmeno desiderarla, non dovevi corteggiare, non dovevi parlare d'amore, perché l'amore era un fatto borghese. Beh, quel giorno che al cinema scoprimmo Laura Antonelli, facemmo un salto indietro generazionale. Scoprimmo che in realtà il sesso era fatto di malizia, era fatto di penombra, era fatto di sottintesi, era fatto di attese, era fatto di cose da scoprire, da sgraffignare, da rubare. Vedemmo questa sorta di fantesca in calze nere, non sapevo nemmeno cosa fossero le calze. Le donne le immaginavamo soltanto che nascevano infagottate, infilate dentro un collan, plastificate dall'ombelico in giù, si smontavano come manichini soltanto per la bisogna, in cui non bisognava nemmeno guardare troppo e commentare troppo, sennò si era dei maschi retrogradi e conservatori, anzi peggio, reazionari. A Laura Antonelli dobbiamo moltissimo della nostra malformata formazione sentimentale, e devono a lei moltissimo i nostri ottici per le diottrie che lasciammo nel suo dolce ricordo. Non capite dunque la tempesta che alberga nel mio cuore? Per me tempesta vuol dire quando fuori piove e tira vento. Albergare invece vuol dire abitare in un albergo. Quello che volevo fare con te e che tu muori dalla voglia di fare con me si chiama trombare, che poi si può dire in tanti altri modi. Per esempio, da voi in Sicilia dite fottere. No, no, nel gorgo del peccato no. Giorni fa mi ha scritto una valente scrittrice a proposito di un pezzo che avevo scritto del tutto innocente su Astro Samantha, dicendo: oggi va molto la donna ipercazzuta. Dice: ah, è emerso il maschio che è in te, io che ti stimavo adesso non voglio più avere nulla a che fare con te. È emerso il maschio che è in me, ma è emerso da qualche parte, in qualche maniera deve pure emergere, poverino, lo reprimo in tutte le maniere possibili e immaginabili. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Tu sei di una generazione diversa dalla mia, il tuo ricordo di Laura Antonelli è diverso dal mio. Per me fu una fulminante riscoperta di quella che era la malizia dei nostri padri, che era fatta appunto di queste sudatissime conquiste. Per te invece cos'è stata? Beh, io quando è uscito Malizia ero ancora di là da nascere, sarei nato 3 anni dopo, penso un po'. Quindi ne eri manco nato? Non neanche nato, però ovviamente... Noi già ci consumavamo con le nostre stesse mani, tu ancora eri, diciamo, nella nuvoletta. L'iperuranio dei nerd cinefili, ero lì, però ripercorrendo come un archeologo a ritroso questa figura, mi trovo davanti a questa bellezza panslavista. Lei era una profuga istriana, era di Pola, aveva questa bellezza con questo velo di tristezza e di assenza che conferiva. Erano già italiani di cui non si doveva parlare, sì. Vennero quasi nascosto con vergogna, nessuno ne parlava perché era un momento che apparteneva a una fetta di storia, doveva essere dimenticata. Era una bellissima profuga giuliano dalmata e arrivò in Italia. Non a caso il suo primo film, che poi ebbe problemi di censura, quindi uscì dopo, ma era del 69, era Venere in pelliccia, da Leopold von Sacher Masoch, perché questa assenza gelida, questa eleganza pura, molto strana per gli afrori del cinema italiano, ecco, veniva da lì, era quel tipo di icona botticelliana, piena di grazia e anche piena di assenza. Cosa passava il convento in quel periodo? Passava le commediacce sexy sboccate, i film con pretestuosità documentaria, che si faceva Viaggio e le avventure sessuali di Helga in 3D con gli occhialini in 3D, oppure quella sorta di film che c'era sempre dietro la pretestuosità di una ricerca antropologica, sociologica, se erano un po' di donnette spogliate. Ma infatti lei veniva da un secolo precedente, questo che abbiamo ascoltato prima era Mio Dio come sono caduto in basso, che è una parodia comenciniana del mondo d'Annunziano. Lei poi ha fatto anche L'innocente di Visconti, cioè, tratto proprio da D'Annunzio, perché rappresentava quel tipo di icona e poteva collidere solo per paradosso, per contrasto con gli attoracci quelli ruvidi della commedia nostra, ma anche del nostro cinema tout court. Era questo che rappresentava, una sorta di alieno proveniente da un altro secolo, una forza del passato che ha fatto irruzione nel nostro 800 24 00 24. Mi rivolgo chiaramente alla componente maschile, fate emergere questa mattina, visto che nessuno per questo potrà condannarvi, visto che lo facciamo in un momento di ricordo di una persona scomparsa. È il momento dell'elaborazione del nostro lutto, quindi fate emergere pure il maschio che è in voi. Quanti ricordate Lauro Antonelli? Quanto ricordate quel momento fatidico, quel passaggio che Malizia improvvisamente fece ricordare a una generazione che esisteva anche quello? Perché quello faceva parte comunque di un retaggio radical borghese che noi dovevamo comunque dimenticare. Parliamo un attimo del film Malizia. Il protagonista maschile di Malizia è un bambino. Se oggi guardate su YouTube delle sequenze di Malizia, vedete un atto che oggi sarebbe giudicato di pedofilia. Una signora, una ragazza avvenente con un bambino con il distintivo nero del lutto. Quindi quanto c'è più di arcaico e di più inviolabile nella sensibilità attuale. Tra l'altro calato nella Sicilia degli anni 50, perché fine degli anni 70, però parla di un turismo. Sì, deve essere giustificato. Perché non è, perché lo sai perché? Perché negli anni 70 non era giustificabile, pensabile nemmeno in Sicilia un atto di quel genere. Non esisteva la donna in reggi calze che saliva sulla scaletta, il bambino là sotto la guardava. Non esisteva il pranzo a tavola con il domenicano, con il padre, il bambino a lutto che infila la mano fra le cosce della sua governante. Poi c'era la sottomissione ancillare, perché le arriva appunto come servetta nella casa il patriarca, il pater familias vedovo, ma vedovo presto consolato. Sì, se la volevano far tutti, padre, fratello grande e fratello piccolo. Una specie di teorema pecoreccio, insomma, quella quando arriva il rompe. Muore la moglie, si prendono il sostituto, si prende una bella fantesca che doveva servire anche a soddisfare i bollori di tutti i maschi di casa. Esatto, che poi era una sorta di tradizione anche di una certa borghesia, quello di passare attraverso le grazie dell'erotismo, attraverso appunto l'amore ancillare che assolveva a questo compito all'interno della, appunto, dell'educazione sentimentale dei giovani rampolli. 800 24 00 24, stiamo ricordando Laura Antonelli, scomparsa appunto penso nelle prime ore di questa mattina, e la ricordiamo come un'attrice che ha segnato comunque un momento di passaggio nell'emotività, nell'educazione sentimentale, non solo quella, di più di una generazione. Donna anche molto sfortunata, con delle vicende personali poi che hanno particolarmente segnata, fu arrestata, andata in prigione per pochi grammi di cocaina che le hanno trovato a casa. Sì, poi ha avuto anche una tormentata vicenda con Belmondo, proprio perché faceva parte di un cinema più europeo, ha incrociato anche Chabrol sulla sua strada. Era una bellezza non italiana, una bellezza europea che ha avuto un po' di sfortune, di incidenti che forse non ne hanno impedito la definitiva consacrazione. Insomma, le uniche volte che ti sei riuscito a fare l'amore sei stato in barca e sul cane. E questo cosa ti fa pensare? Poche due volte in 30 anni è un po' pochino, mi sembra. No, sai che ti per far la mortica ha bisogno di trovarti su un mezzo di trasporto. Ma cosa dici? Cosa c'entro? Ma Lello, c'entra! Non lo sai che il treno e la macchina sono stimolanti sessuali, sono afroasiatici. Ma grazie, ma cosa dici? Ma voi vuol dire che noi dobbiamo andare a far l'amore? Ma no! In macchina ad aeroplano! Ma te sei proprio scemo! Ma te leggi proprio romanzi di fatti e scienza! Ma va, ma lasciami dormire, ma cosa? Dai, Lello! Sì, ma no! Dai! Ma dai, ma guarda, così spinta meno! C'era anche una sorta di grazia che apparentemente sembrava inviolabile rispetto alle grandi matronesse del cinema sboccato italiano. Anche a loro noi dobbiamo la perdita di un'infinità di diottrie, ma le ricordiamo come altri personaggi, ben altra caratura, e soprattutto spiccavano sempre perché erano vicino a uomini scellerati. Lei invece era questa sua carica fortissima, quasi ammaliatrice di sensualità, era proprio perché aveva una figura apparentemente quasi acquesapone. Oggi leggo una pagina intera di auto da fe, di pentimento di Claudia Cole, dice: non mi faccio suora soltanto tanto per il figlio che ha adottato. Ecco, Claudia Cole era un altro esempio, un'altra figura, e oggi ne sta giustamente nella sua, nel suo immaginario, pagando nel fio delle sue colpe passate. Ma la Rontanelli è rimasta talmente incontaminata nel suo passaggio a quello che ha fatto, tanto che ha avuto anche questa terribile vicenda di un'operazione chirurgica plastica andata male, ci fu un momento in cui è stata deturpata completamente. Sì, però qui siamo ancora all'inizio degli anni 70 e con Dino Risi in Sesso Matto mostra tutta la sua brillantezza, la sua verve anche comica, di attrice capace di essere camaleontica come il suo partner Giannini, che fa il brutale gestore di una bancarella che però al momento del dunque, durante il viaggio di nozze a Venezia, non riesce a consumare l'atto sessuale. E l'Antonelli cerca, escogita, cerca da detective di capire qual è il problema. Il problema è che ha bisogno di sentirsi in viaggio durante un trasporto, e quindi si caleranno nell'ascensore. Quindi c'era questa forte verve comica anche presente. Mi fa piacere che il primo a chiamare una donna, 800 24 00 24, ha fatto appello a una generazione ormai con un piede nella fossa dei miei coetanei, ma chiama una donna. Elena, buongiorno. Ecco, io sono ancora di più con il piede nella fossa perché ne ho 71. Vabbè, allora qua gente è già putrefatta, diciamo, quel 71. Sì, comunque non è un problema quello. Sì. Il problema è che, come sempre, lei è puntuale, e questa è una bellissima cosa. Io sono quella della natura delle cose che lei sa cogliere. Sì. E ecco, io quello che lei ha detto sul sesso vissuto negli anni 70. Me lo conferma lei, me lo conferma. Prego. No, me lo conferma, lei ha pochissimi anni più di me, più o meno siano coetanei. Conferma, sì, certo, che fu un salto fondamentale. Nessuna ragazza nel 1973 sarebbe messa in reggicalze e l'avrebbero bruciata in piazza. Assolutamente. Questo perbenismo squallido che ci pervade tuttora è brutto. Lei ringrazio per il... Sì, però servizio sociale che fa. Servizio sociale, esagerato. Solo una battuta. No, io ci credo. Solo una battuta, Elena. Esattamente in quegli anni lei come viveva il senso della malizia? Perché lei aveva qualche anno più di me, quindi lei avrà avuto 25 anni, diciamo, quando usciva. Certo. A 25 anni lei come andava in giro con ciò? 27, 28, 29. Quindi era nel fiore, sì, nel fiore dell'esplosione dei sensi. Avevo due figli piccoli e la malizia era in me, ovviamente, perché sono di quella benedetta generazione dopo la guerra, e con il retaggio di ciò che era stato, ma bellissima memoria, ci mancherebbe altro, non la distruggiamo sempre. Va bene, grazie Elena. Elena, devo lasciare la linea alle informazioni del traffico che già ho fatto ritardare, ma il suo ricordo della nostalgia per la malizia perduta valeva la pena di essere conservato in questa trasmissione. Melog, cronache meridiane. Ma vero credevi che ti avevo tradito, Megaluzzo? No, ti ho soltanto vendicato. Tutte le arti erotiche, usai, me le feci insegnare da Carmela la Bottana. Tu la conoscevi, no? Tutti i trucchi e gli artifici sessuali mi insegnò. Per distruggerlo lo eccitai con ogni parte del mio corpo, anche contro natura, musò. Ma ora vendetta è fatta, delitto sessuale fu. Come? Vuoi sapere se provai piacere? Una volta sola mi scappò un godimento involontario. Ma poco poco, Micheluzzo, ti giuro. Poco poco. Un piccolissimo orgasmo fu, perdonami. Incazzato sei? No? Non mi guardare così, Micheluzzo. Posso andare allora? Ciao Micheluzzo, ci vediamo. Specifichiamo che in questo caso una vedova a parlare di fronte alla lapide del marito morto, perché questi non sono certo discorsi che si fanno a un marito vivo. Vabbè, che i tempi sono cambiati. Oggi stiamo parlando di Laura Antonelli, che è morta. Ci dispiace molto. È un vulnus incolmabile nella nostra formazione sentimentale, non soltanto questa. Divide questo mio lutto anche l'ascoltatore Fabio, che mi scrive un SMS. State parlando di Laura Antonelli. A pensarci, mi fanno male ancora le mani. Giuseppe Sansone. Questo era sempre un episodio di Sesso Matto in cui appunto la vedova Laura Antonelli prona sulla lapide di Giancarlo Giannini, che nella foto della lapide cambia espressione a seconda delle parti del racconto esposte dall'Antonelli. L'Antonelli è riuscita a vendicarlo perché è morto per mano mafiosa. Il boss mafioso è stato ucciso da una notte di sesso. Ecco, si poteva ironizzare, dissacrare miti come la vendetta, la mafia, come cose anche tetre. E tra l'altro siamo nello stesso habitat, nello stesso contesto, nello stesso milieu di malizia e nello stesso periodo. Siamo nel cuore di una Sicilia arcaica e si può giocare con questo mito dell'eros onnipresente nella cultura siciliana, soprattutto dell'epoca, insomma, questa, i tabù da sfatare e il gioco con questo. Quindi c'era anche la verve brillante, come si diceva prima, la capacità anche di mostrare il lato comico della bellezza e dell'eros. Io non mi sto rendendo di una cosa, di un conto probabilmente di una cosa, che ormai la generazione che ogni tanto chiamo all'appello a portarmi i propri ricordi, probabilmente sta ai giardinetti a giocare a bocce, girella a guardare i cantieri, non sono più persone che ascoltano vivacemente e hanno possibilità di attingere lucidamente al loro ricordo. Enrico. Pronto? Mi contraddica, dica che ancora ci siete, esistete, le persone della mia generazione non sono proprio del tutto finiti, o mi sbaglio? Beh, Nicoletti, io penso di avere più o meno la tua età, forse qualche anno di più, ne ho 56 anni. No, ce n'hai 5 di meno, se proprio vuoi saperlo. 5 di meno? Vabbè, sì. Sono di più. Vabbè, comunque. Quindi? Io ero ragazzino, sì, avevo avuto forse 15 anni. Avevi qualche anno. Tu eri nell'anno, è proprio nel periodo cosiddetto, diciamo, del calo delle diottrie, quindi gli avrei dato sotto. Sì. Ma no, andai per curiosità a vedere questo film. Tra l'altro non potevamo forse neanche entrare perché era vietato ai minori di anni 18 e noi ne avevamo molto. Eppure era un film che non si vedeva nulla, a parte l'amplesso finale di lei che si fa il bambino, che è una cosa che oggi a vederlo da qualche perplessità, ma al massimo si vedeva il liminare dell'attaccatura della calza, a fine. Certo, no? Lasciava molto con l'immaginazione. Era quello fatto. Il punto bello, no? Cioè che non era una, diciamo, questo era un erotismo così nascosto, no? Sottinteso. E questo che è il bello forse anche di questo film, non di quelli dei film che fanno adesso dove tutto si vede, dove è pornografia. Sì, riscoprimo una cosa oggi è inflazionata, la biancheria intima questo. È inflazionata, non se ne può più, oggi una delle donne preferisce proprio non vedergli quella roba addosso, perché sono piene le vetrine. Ma allora, la calza autoreggente, anzi la calza con reggicalze, era roba mettano le nonne per contenere le vene varicose, non la legavamo minimamente all'aspetto della seduzione, perché le nostre coetanee erano blindate dentro i collan. È vero. Questo qui è la verità, infatti, no? E per cui era questo che suscitava anche l'interesse, forse anche in noi, insomma, ragazzi, giovani e adolescenti. Fu un ritorno dal passato che improvvisamente ci fulminò. Giuseppe Sanson. Il discorso su Maso, che lei nasce come Venere Pellice, è proprio per questo: c'è un eros atteso, fatto di ritualità, di penombre, non un eros visto e consumato e bruciato. C'era proprio l'attesa malizia, è tutta un'attesa, di questa iniziazione adolescenziale del giovane che diventa uomo. Manierismo nell'attuale 50 sfumature di grigio, che già celebra un fenomeno nella sua fase discendente, il sadomasochismo da cucinino o da retrobottega di salone di massaggio cinese oggi viene celebrato in una sorta di rivisitazione kitsch. Allora era la scoperta di qualcosa che non sapevamo nemmeno che esistesse. Ma oggi la carne è tutta visibile in tutte le forme, in tutte le aberrazioni, e quindi non è visibile niente, siamo tutti ciechi proprio perché vediamo tutto e troppo. Diamo un ultimo assaggio. Se cerca la chiave, è nella toppa della porta. La chiave è nella toppa? E chi ce l'ha ficcata? L'ho messa io. Vuole dire che lei ha ravanato dentro il mio intimo? Beh, ho cercato in tutti i modi di svegliarla, ma ronfava come un ghiro. Ha il sonno pesante, lo sa? A domanda risponda. Vuol dire che lei ha ravanato nel mio intimo? A domanda rispondo, sì. Oddio, ma non saresti caccozzo! Ecco, questo è un altro assurdo della memoria. Abate Antonio vorrebbe rinnegare probabilmente questo suo passaggio da Teruncello, che però si è confrontato lui con Laura Antonelli in un momento che sicuramente non è il più felice della sua carriera. Beh, economicamente lo è stato sicuramente, poi ha creato un poi archetipo. L'ha rinnegato. Ma sì, però ha creato un archetipo, comunque era l'ur pugliese barbarico, l'Attila proveniente dalla Daunia, dalla Capitanata, con questo capello liscio, il baffone, quindi la bestia vicino alla bella Angelica che era Laura Antonelli, e quindi per contrasto l'effetto comico era perfetto, cioè, quindi la grazia che si scontra con la brutalità, e questo nei Vanzina di Violentemente Mia aveva un effetto dirompente. Comunque probabilmente se n'è andata nel momento giusto, perché vedo che chi ancora è custode della sua memoria sensuale in questo momento non ha più nemmeno la memoria per potersi ricordare quello che lei significò, e questo mi dispiace, ma fa parte dello scorrere implacabile del tempo. Alla prossima.